Riuniti nella sala da pranzo si comportavano tutti come il solito. Eppure qualcosa era mutato nell'aria, ognuno si comportava in modo diverso, persino Bungee pareva più riservato. La cena fu insolitamente silenziosa. La signora Muraki si scusò di buon'ora, Akio la seguì. Akio, hai finito gli inventari mensili? Domandò bruscamente il vecchio Muraki. Per tutta la serata non aveva aperto bocca. Faceva piuttosto freddo, la notte era umida e aveva ordinato che si riempisse di carboni accesi un piccolo braciere davanti al quale si era seduto, fumando una piccola pipa di bambù. Sì, padre, disse tranquillamente Akio. Padre e figlio si scambiarono una lunga, ferma occhiata. Poi il signor Muraki guardò dall'altra parte. Va bene, disse, e Akio uscì. Aiwan e Bungee rimasero soli col vecchio. Di solito ad Aiwan piaceva ascoltare i discorsi del signor Muraki. Qualche volta capitava che questi non fosse in vena e allora Aiwan restava a guardarlo fumare tranquillamente. Fino allora era stata l'immagine stessa della bontà, ma quella sera Aiwan era confuso. Quel mite vecchio era colui che aveva fatto di Tama, del suo amore, una prigioniera in qualche angolo di quella casa. No. Non c'erano serrature alle porte. Le tramezze erano tutte aperte sul giardino, ma per Tamà era come se fossero chiuse da un catenaccio, dopo l'ordine di suo padre. Finalmente, e improvvisamente, il signor Muraki parlò. «Bungee, va in camera tua», disse. «Devo parlare a Daiwan per incarico di suo padre». Bungee, sorpreso, diede un'occhiata a Daiwan, ma non gli restò che alzarsi e uscire. Aiwan rimase solo col vecchio, il cuore cominciò a battergli forte nel petto. Guardando la faccia composta e senile del suo interlocutore, si disse che non doveva temere, ma non sapeva neppure lui come e perché avesse tanta paura. Quel volto era così sicuro, così segnato dalla decisione di far prevalere la propria concezione della vita, la concezione che conosceva. Quel volto non avrebbe mai ammesso che si potesse avere una mentalità diversa. Aiwan aveva pensato di parlare direttamente al signor Muraki, ma ora abbandonò quel pensiero. Doveva avvicinarlo nei modi tradizionali che gli erano familiari, pena un completo fallimento, meglio aspettare, in silenziosa immobilità. Vostro padre, disse lentamente il signor Muraki, è soddisfatto dei vostri progressi di cui l'ho informato. Fece una pausa, in apparenza per riaccendere la pipa, con un frammento di carbone vivo che aveva raccolto con certe mollette di ottone. Grazie, signore, disse Aiwan. Vostro padre mi scrive, proseguì il signor Muraki, che le cose in Cina sono molto migliorate, gli elementi rivoluzionari sono stati eliminati, i comunisti sono stati ricacciati nelle province interne e l'ordine è stato ristabilito. Aiwan non rispose, ma subodorò che suo padre aveva informato il signor Muraki del motivo per cui lo aveva inviato all'estero. L'ordine, proseguì il vecchio con la sua voce tranquilla, prevarrà sempre. L'ordine è la cosa che devono imparare i giovani. Il desiderio, l'ostinazione, gli smodati appetiti per niente devono essere frenati. È la via dell'ordine che deve essere rigidamente seguita. Si interruppe e poi proseguì, per il bene di tutti. Si schiarì la voce e quindi più forte. Perciò, dato che vi siete comportato così bene a Iwan e avete imparato da noi tante cose, ho deciso di inviarvi a Yokohama, dove aiuterete mio figlio Shio negli uffici che abbiamo laggiù. E ora che impariate quanto ancora non conoscete del nostro lavoro. Senza contare che a Yokohama c'è una buona università dove potrete perfezionare i vostri studi. Non risiederete in casa di Shio, ma nel caseggiato che ospita gli altri giovani impiegati della ditta. Sì, signore, mormorò Aiwan. Avrebbe voluto gridare. So che cosa volete dire. Volete mandarmi via da Tamà? E poi ancora, perché non ci sposeremmo? Io e lei. Ma non poté proferir parola. Nella vecchia figura seduta impettita vicino al braciere c'era tanta dignità che egli non poté che mormorare. Per il momento il suo consenso. Dal momento che io faccio sempre immediatamente quello che ho ponderatamente deciso di fare, soggiunse il signor Muraki, partirete domani. Il caso vuole che Akio vada a Yokohama per il suo solito viaggio mensile di consultazione col fratello. Avete mai viaggiato in aeroplano? Il vecchio muraki, ponendogli la domanda, lo guardò aggrottando obliquamente le sopracciglia. No, signore, mormorò Aiwan. Domani. Doveva partire domani. Ah, disse il signor Muraki, vi interesserà allora volare? Gli apparecchi giapponesi sono ottimi, perciò. Ah! Quella sommessa esclamazione finale equivaleva a un congedo. Accennò appena col capo, ma Aiwan esitava. Avrebbe dovuto ringraziare in qualche modo, ma non trovò parole. I ringraziamenti lo avrebbero soffocato. Buonanotte, signore, disse. Buonanotte, rispose il signor Muraki. Fuori trovò Bungee, che lo attendeva. Che cosa ti ha detto? Domandò Bungee. Devo partire per Yokohama, rispose Aiwan. Entrambi si guardarono. Immaginavo che qualche cosa sarebbe accaduta, disse Bungee. Tornando a casa stasera ho sentito che qualcosa era nell'aria. Tutto funzionava con una meticolosità insolita, segno che la servitù sentiva anch'essa che mio padre era irritato. Tutti lo temono. Aiwan non rispose. Nel suo paese tutti erano ribelli, figli contro genitori, popolo contro governanti. La Cina era usa all'arbitrio e all'indisciplina di gente amante della libertà, ma qui non una foglia del giardino si muoveva senza che qualcuno lo volesse. Forbici spietate potavano e radevano il minimo particolare, secondo forme prestabilite. Aiwan cominciava a notare che la grande pace che regnava nella casa, lo squisito ordine di tutte le cose, era il risultato di una volontà spietata. E ora che cosa facciamo? Domandò Bungee. Non so, non mi sento di andare a letto. Piove, altrimenti potremmo uscire per una camminata. Non importa della pioggia, rispose Aiwan con la disperazione nella voce. Tamà non sarebbe stata libera prima di dopodomani e a lui sarebbe toccato di partire senza rivederla. Mettiti l'impermeabile, disse Bungee. Indossarono le mantelline di tela cerata che erano appese dietro un paravento e uscirono sotto la pioggia fresca e tranquilla. Le strade sassose erano deserte, non si vedeva che qualche serva uscita per commissioni o un rickshaw col mantice alzato. A piedi raggiunsero il mare, che mormorava sulle pietre del Lido. Nel buio echeggiava il fragore dell'onda laggiù contro il frangente del molo. Nel porto il mare era calmo come uno stagno. Tacquero a lungo. Poi, improvvisamente, Bungee disse: Non ci crederai, ma una volta un maremoto sollevò un'onda che superò di 7 o 8 metri il frangente e s'abbatté tonante sul porto, schiantando grosse navi l'una contro l'altra. E trasportando via con sé nel ritrarsi molte imbarcazioni. Il molo non servì a niente? Domandò distratto Aiwan. Non serve quando il mare veramente si gonfia, disse Bungee. Allora niente può frenare l'onda. Pare incredibile. Continuarono il loro cammino, apparentemente senza meta precisa. Aiwan sentiva la pioggia battergli sul viso, aveva i capelli bagnati, un rivolo gli scendeva giù per la schiena, pensò. Probabilmente non la rivedrò mai più, e poi che cosa ne sarà di lei? Bungee si fermò davanti a una casetta quadrata che sorgeva con cura meticolosa nel centro di un giardinetto pure quadrato. Aiwan! Eh? Questa è la casa di Akio. Di Akio? Dove abita Sumi? Spiegò Bungee. Aiwan fu distratto per un momento dai suoi pensieri grevi. Akio? Quell'uomo misterioso, così strano e riservato, esatto come una macchina, abitava qui? Ti spiacerebbe entrare? Ma lo possiamo? Aiwan non si era mai trovato in una situazione come quella. Casi come quello di Akio succedevano naturalmente, ma non se ne doveva parlare. Certo, disse Bungee, scuotendo la pioggia dal suo cappuccio. Io vengo qui spesso, Sumi e io siamo amiconi. È una gran brava donna. Anche mia madre le ha fatto visita. Come credi? Disse ancora dubitoso Aiwan. Come si sarebbe comportato davanti ad Akio e a Sumi? Adulto come egli era, non aveva mai veduto donne del suo stampo. Suo padre gli aveva sempre detto alla larga da donne simili. A proposito di certi casi successi ad Aiko, suo fratello, ma allora egli era distratto dalle cose della rivoluzione e non aveva fatto gran caso alla raccomandazione. Venuto in Giappone, non aveva voluto donne giapponesi, voleva solo Tama. Bungee picchiava una parete di carta, un telaio fu scostato. Bungee, sei tu? Domandò nel buio una voce morbida. Io e il mio amico cinese? Una luce s'accese in alto e Aiwan vide una donna bassa e tarchiata, non più giovane, sebbene ancora molto carina, che guardava fuori nel buio piovoso. Avanti, avanti, disse con calore. Oh, come siete bagnati, disse poi come furono dentro. È questo, Aiwan? Akio me ne ha parlato. Come son contenta. Levatevi i cappucci e le scarpe. Avete bagnati anche i piedi? Bungee si liberò delle scarpe scotendosele via dai piedi e lei si inginocchiò a tastarglieli. Oh, sono bagnati. Ho molte calze di Akio qui. Dovete cambiarvi. Ah, ragazzacci che siete. Quella sua premura, quella sua gentilezza e naturalezza incantavano. Aiwan ne fu vagamente confortato e per la prima volta in quella giornata il cuore gli si aprì un poco. La seguirono in una stanza illuminata, asciutta e riscaldata da un braciere, accanto al quale seduto era Akio, intento a leggere un giornale. Era un Akio quale Aiwan non aveva mai veduto finora, una figura cordiale e sorridente che alzava il capo e invitava. Avanti, Bungee, benvenuto, Aiwan. Li trattava come ospiti di riguardo. Sumi, per favore, due altre tazze. Lei era già passata di là nell'altra stanza. Sì, disse con la sua voce morbida. Porto tutto, o gente impaziente che siete. Akio rise. Aiwan non l'aveva mai visto ridere prima d'allora. Un istante dopo, Sumi ricomparve, camminando silenziosamente sulle stuoie felpate, con due coppe per il vino e due paia di calze pulite e asciutte sul braccio. Alla luce si rivelava più graziosa che mai, avvolta nel suo kimono di seta di un denso colore albicocca, tempestato di fiori bianchi di pero. I capelli erano ancora neri e li portava acconciati, secondo il vecchio stile giapponese a farfalla. Le gote erano tonde, le labbra morbide e rosse. Ecco. Ecco qua ogni cosa, disse. Tu, Akio, versa loro il sakè bollente. Su, presto, Akio. E voi cambiatevi subito le calze prima che vi prendiate un raffreddore. Pochi minuti dopo erano tutti seduti attorno al braciere, sorseggiando il sakè bollente con un caldo senso di benessere e di libertà. Sì, fra quelle mura c'era un senso di libertà, qualunque fosse. Akio, che in casa Muraki non chiacchierava mai, ora parlava e parlava, ascoltato attentamente, in silenzio, da Bungee. Sumi s'alzò senza dir nulla, prese una piccola scatola laccata, ne trasse un pezzo di seta e cominciò a ricamare in disparte dal gruppo. A tratti guardava Akio e gli riempiva la coppa e ravvivava il fuoco. A tutta prima Aiwan non aprì bocca, voleva anzitutto scoprir terreno, capire un po' della vita segreta nella quale Bungee lo aveva introdotto. In essa non c'era assolutamente nulla che non fosse prettamente giapponese. La casa avrebbe potuto essere quella di una qualunque famiglia di medio ceto. Pochi libri in un basso scaffale di legno lucido, un pannello semplice appeso sopra l'alcova e sotto un giglio rosso con due lunghe foglie che uscivano da un vaso dal collo allungato. Le stuoie sulle quali erano seduti erano immacolate. Unico disordine era il giornale che Akio aveva gettato a terra quando aveva cominciato a parlare della cosa che meno interessava Aiwan, della guerra. Aiwan non riuscì dopo a ricordarsi tutto quello che Akio aveva detto, ma che importava? Il miracolo era Akio, lui in persona, che parlava con voce sobria e tranquilla nella stanza calda e illuminata. Dentro allo stampo, nel quale Aiwan si era figurato l'uomo Akio, c'era sì un uomo, ma diverso. Un uomo che parlava della follia della guerra, follia che tuttavia gli uomini dovevano compiere per l'impossibilità di giudicare le cose con uguale criterio. La guerra, uscì a dire con la sua morbida voce Sumi. Non dobbiamo combattere nessuno, c'è sempre un altro modo di farla. La guerra. Sempre. Quando lei parlava, Akio si interrompeva per ascoltarla, sorridendo serenamente. come se non tanto importasse quello che essa diceva quanto il suono della sua voce. «Ben detto, Sumi!» esclamò Bungi. «Quando si arriva al peggio, c'è sempre mezzo di fare la guerra con altri sistemi!» Sumi balzò in piedi e prese la caraffa del sakè. «Orsù, siate bravi, non parlate di cose simili!» li esortò carezzevolmente. «È male parlarne, no, niente guerra! Mio nonno fu ucciso prima che io nascessi nella guerra di Cina e noi fummo lasciati nella miseria. E nonostante che la vittoria ci arridesse presto, egli non ne ricavò alcun beneficio. Quando tutti si riversavano per le strade a salutare i soldati che rimpatriavano, mia madre restò in casa, chiuse le finestre e pianse. Ecco, mentre voi bevete, io canto. È così bello essere felici». Andò a prendere un piccolo liuto. Sedette e cantò con fresca grazia una canzone dove si parlava di neve e di fiori di prugno. «L'ho imparata nel paese dove sono cresciuta», spiegò. «Ai Wan si sentiva in pace là in quella casa a cui il signor Muraki aveva dato l'ostracismo, ma la casa sussisteva lo stesso nonostante il vecchio». Si salutarono finalmente e Bungi tornò a casa con Ai Wan. Per tutto il tragitto, Ai Wan non fece che pensare all'ultimo momento a Sumi che li congedava, inchinandosi sulla porta. Pensò alla sua sorridente semplicità, al suo infantile ardore, ad Akio in piedi accanto a lei, così diverso dall'Akio che aveva conosciuto. «È una vergogna», proruppe verso Bungi. «Sì, lo è, ma non c'è nulla da farci». «Sumi è tanto buona», insistette Ai Wan. «Sì», convenne ancora Bungi. «Tutti lo sappiamo, ma il destino non l'aveva fatta per essere la sposa di Akio». «Ma credi che due creature possano nascere l'una per l'altra?» domandò Ai Wan. «Certamente», rispose Bungi con semplicità. «Così dice mia madre. Non per l'amore, naturalmente, l'amore è un'altra cosa, ma certo due creature sono nate sotto certe stelle per essere marito e moglie. In tal caso il loro matrimonio è felice. Vedi, questa è davvero la colpa di Akio. Di Akio che non vuole sposare la donna del suo destino. Sai chi sia? Naturalmente, è la figlia di un amico di mio padre. Tutti dicono che è buona e coscienziosa, ma Akio sfida il suo destino e mio padre dice che porterà sfortuna a tutti. Oh, a tutta prima la cosa si presentò molto male, specialmente perché Akio è bravissimo in sé e mio padre fu molto sorpreso per la sua disobbedienza. Rientrati in casa, si scambiarono la buonanotte con un cenno del capo e Ai Wan si ritirò in camera sua. Le tramezze erano state tutte chiuse. Improvvisamente fu preso da un senso di oppressione e spalancò le sue. Il giardino, velato di vapori, altrettanto bianco e chiuso quanto le tramezze della casa, parve serrarlo, isolandolo dal mondo. Non avrebbe potuto dire quando quella notte gli venne il pensiero di vedere Tama. Aveva dormito, ma aveva dormito davvero? Da un tratto, dopo lunghe ore solitarie, le cose gli apparvero insensate e senza perché. Solo Akio gli sembrò saggio nella sua disobbedienza. «Perché dovrei inibirmi di andare direttamente da Tamà?» si domandò. Sedette sulla stuoia ripetendosi «Perché no?» Se avesse potuto vedere Tamà una volta sola, la partenza per Yokohama sarebbe stata meno dura. In breve, quel pensiero divenne un bisogno. Sapeva dov'era la camera di Tamà. Non c'era mai stato, ma sapeva che era dall'altra parte della casa, oltre le camere dei vecchi. Ai Wan sapeva che il signor Muraki aveva un sacro terrore dell'aria notturna. Parlandone una volta lo aveva sentito dire che le brezze notturne sono mortali, specie per i vecchi. Tamà aveva esclamato: «Io, quanto a me, di notte apro sempre le tramezze». Al che la signora Muraki aveva interloquito con la sua voce liscia e sommessa: «Sh, Tamà, non si confà una fanciulla come te di scorrere della notte». Un'altra volta Tamà aveva detto per caso a Ai Wan: «L'anno scorso, nella ricorrenza del mio compleanno, mio padre mi domandò che cosa volevo e io gli risposi che desideravo mi fosse data la stanza davanti alla piccola cascata. Così mi addormento e mi sveglio al mormorio dell'acqua fra le rocce». Ai Wan aveva pensato a lei intenta ad ascoltare il rumore della cascata e ora calcolò che uscendo nella notte nebbiosa poteva servirsi di quel rumore come di una guida per raggiungere la stanza di Tamà. Perché no? Gli tornò il pensiero di Akio che tranquillamente seguiva la sua via. Anche lui doveva fare come Akio. S'alzò, indossò la veste e uscì nel giardino. L'erba era molle e bagnata e lui ci camminava sopra leggermente per non lasciare orme di passi. Le tramezze del signor Muraki dovevano essere chiuse e questo facilitava molto l'impresa. Le passò, raggiunse l'angolo della casa, piegò a destra e restò in ascolto celato dalla nebbia. S'udiva il rumore della cascata, uno sciacquio armonioso verso il quale si diresse protendendo le mani per non urtare contro alberi o cespugli. Improvvisamente sentì delle pietre sotto i piedi. Ecco, quello era il sentiero che dal padiglione d'estate conduceva alla cascata. Ora stava per arrivare alla meta. Il rumore dell'acqua era lì, a due passi. La raggiunse, allungò una mano e sentì il palmo bagnato. Ora doveva volgere la schiena. Davanti a sé avrebbe avuto la camera di Tamà. Il buio era completo. Se Tamà dormiva avrebbe dovuto grattare un po' l'impannata per svegliarla, ma doveva stare molto attento a camminare diritto per non sbagliare la meta. Sarebbe stata bella capitare nella stanza del signor Muraki. Contò. Uno, due, tre. Ora il militare passo cadenzato gli serviva a qualche cosa. Alzava bene in alto il piede e lo posava di nuovo con gran cura. Eccitato com'era, rideva un poco fra i denti. Era un divertimento, forse un pericoloso divertimento quello. Se Tamà avesse potuto vederlo, certo lo avrebbe trovato ridicolo. Per fortuna c'era la nebbia. Il suo piede urtò contro qualche cosa, allungò la mano, era lo spigolo di legno della stretta veranda. Tastò verso l'alto con entrambe le mani e, come aveva pensato, trovò che le tramezze erano scostate. Stava per grattarle leggermente come un topo, ma si trattenne. Meglio ascoltare ancora, pensò. Sì, la cascata era proprio dietro di lui, dunque questa doveva essere la camera di Tamà. Grattò leggermente la tramezza. La notte era così silenziosa e tranquilla che non ardì tossire. Che cosa avrebbe detto Tamà? Ora che aveva raggiunto il limitare dell'uscio, quasi dubitava di lei. Se per avventura ella non avesse voluto disobbedire in nulla a suo padre. Era una così strana mescolanza di nuovo e di antico, Tamà. Nessuno sapeva dire con precisione quando ella fosse una giapponese all'antica e quando invece una moga. A tutta prima non sentì niente. La stanza era così silenziosa da parer vuota. Poi percepì un lungo sospiro e il rumore di una mano allungata nel buio e abbandonata su di una stuoia. Forse Tamà dormiva, ma no, eccola, eccola che gemeva piano, era sveglia, sospirava di nuovo. Egli batté una serie di rapidi colpettini sul legno, si interruppe, poi batté di nuovo. Una luce tremò fioca dietro al paravento interno collocato vicino al letto. Dietro la sua seta sottile, Aiwan vide l'ombra di Tamà con i lunghi capelli sciolti alzarsi dalla stuoia. Tamà ascoltava. Egli ripeté il segnale. Ora Tamà sapeva che c'era qualcuno. Aiwan vide l'ombra indecisa a scostarsi un poco. Forse aveva paura. Tamà! Mormorò. Improvvisamente ella apparve stringendosi al petto la lunga veste. Aiwan! Sussurrò sbigottita. Tamà! Supplicò lui. Dovevo! Mi mandano a Yokohama, parto domani mattina. Non so quando tornerò. Bungi mi ha detto che tuo padre è in collera con te. Come posso partire così? Ma tu, se mio padre ti sorprendesse qui, ti rispedirebbe in Cina. Non mi troverà, disse Aiwan, poi supplichevole. Tama, aiutami. Aiutarti? Dimentica di essere giapponese, Tama. Siamo quelli che siamo, tu e io, buoni amici. Non fu una gran giornata quella trascorsa sui monti, mi pare ieri. Sì. Tamà, ieri sera sono andato da Akio, ho visto Sumi, non ho mai ammirato tanto tuo fratello, ci vuole del coraggio ad amare Sumi così, la gente dovrebbe avere coraggio, quando sa di avere ragione. Tamà si teneva indietro i capelli con una mano, era in piedi e lo ascoltava, guardandolo fisso, avvolta nella sua lunga vestaglia color rosa. Ma cominciò. Non entro, disse in fretta Iwan. Rimango qui, ma vieni nell'angolo della casa vicino a me, così potremo parlare un poco. Pensa, vado via domani. Ella non rispose. Con un soffio spense la candela. Ho paura che qualcuno ci veda, bisbigliò. Poi egli se la sentì accanto, seduta sull'orlo del pavimento della veranda. Allungando una mano, sentiva la sua spalla. Tamà, mormorò col cuore che gli batteva forte. Fu tentato di allungare le braccia e di stringerla forte a sé, ma Tamà si scostò ed egli non osò. Siedi qui vicino a me, mormorò lei con un soffio di voce appena percettibile. No, prego, un po' più discosto. Aiwan, se qualcuno ci sentisse, accadrebbe qualche cosa di terribile. Fai presto. Sì, promise Aiwan. Era vero. Se li scoprivano, il castigo sarebbe stato terribile. Una volta in Cina, egli aveva sentito suo nonno raccontare di una sua sorella che era stata uccisa per ordine del padre, perché sorpresa con l'innamorato in platonici conversare in giardino. E il signor Muraki era ancora più severo. Tamà, disse in fretta, a proposito di quel generale Sekhi, tu non cederai mai, non è vero? Mai, lo assicurò con impeto lei. Di nuovo egli sentì la spalla di lei contro la sua. Non potrei sopportare una cosa simile, Tamà. Tornerò, non so come, ma tornerò, vedrai. Mi troverai qui, sussurrò lei. Non sposare nessuno, la supplicò ancora Iwan. Voleva aggiungere, sposa soltanto me, ma non riuscì. Era una cosa enorme, troppo enorme per essere detta. Essi erano così giovani. E tanti elementi militavano contro di loro, e quell'incontro era un'avventura pericolosa. Dopo un po', egli si sentì sussurrare all'orecchio: Non voglio sposare nessuno. Egli avrebbe voluto alzarsi e gridare dalla gioia, e si chinò all'orecchio e... Straordinaria questa nebbia! Non è vero? È come una tenda che ci nasconde. Uno spirito buono ce l'ha mandata, sussurrò Tamà in risposta. Mi permetterai di scriverti? Domandò ancora lui. Ho tante cose da dirti, però a chi manderò le lettere indirizzate? A te? A Sumi, rispose lei. Sumi le terrà per me. Qualche volta vado a trovarla. Disse questo con tanta prontezza che si vedeva che ci aveva pensato prima. Come tutto viene a proposito, mormorò con gioia Iwan. Non ci avrei mai pensato ieri sera andando da Sumi. Non avevo idea. Destino, disse lei con solennità. C'è un destino per noi. Mi domando qual è. Impossibile saperlo, ma certo un destino ci ha segnato la via. Egli voleva esclamare: So qual è il destino di amarci a vicenda. Ma non poté dir nulla. Mai in vita sua aveva pronunciato quelle parole ad alta voce e nemmeno le aveva sentite dire da altri per significare l'amore che ora si sentiva fiammeggiare nel petto. Era una cosa così nuova, così profonda, così soverchiante, che nell'ansia di quel pericoloso momento non ardì parlarne. Ci sarebbe stato tempo dopo. Non possiamo affrettare il destino, continuò lei, e nemmeno evitarlo. Credi anche tu? Che due creature siano nate per sposarsi? Domandò balbettando. Sì. Tacquero, seduti nel buio, spalla contro spalla. Egli avvertì un piccolo brivido giù per il braccio e poi nella mano. Si allungò e afferrò la mano di lei. Ora devi andare, disse in fretta Tamà. Ti scriverò non appena mi dirai dove e torneremo a incontrarci. Destino. Destino nostro. Disse lui con forza. Si strinsero ancora le mani, poi ella balzò in piedi e un secondo dopo egli avvertì il fruscio delle tramezze che tornavano a posto. Rimasto solo, tornò a tentoni in camera sua attraverso la nebbia. Bene, ora poteva andare anche a Yokohama. Era così agitato che non poteva dormire, sarebbe rimasto sveglio a pensare a lei. S'addormentò, invece, di colpo.